Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio. A Castelfidardo, giovedì scorso, il crollo del cavalcavia sulla 14, due morti e tre feriti. Ad ottobre, in provincia di Lecco, un'altra vittima per il cedimento di un altro cavalcavia al passaggio di un trasporto eccezionale. Due casi che, al di là delle cause e quindi delle responsabilità che dovranno essere accertate, indicano che quando si parla di sicurezza stradale, la questione legata agli interventi e alle manutenzioni delle infrastrutture va considerata con la stessa attenzione che in genere viene rivolta alle condotte di guida responsabili, oggetto negli ultimi tempi di provvedimenti di legge e campagne di sensibilizzazione. Le stesse statistiche nazionali ed internazionali ci dicono che le condizioni delle strade, pensiamo per esempio all'asfalto dissestato o alla scarsa illuminazione, sono una causa diretta o quantomeno una concausa ricorrente negli incidenti. Su questo punto abbiamo sentito Pasquale Russo, segretario di UNATRAS, l'Unione delle Associazioni della autotrasporto. L'elemento infrastrutturale è centrale, è chiaro che per garantire livelli di sicurezza adeguati bisogna avere infrastrutture e manutenzione dell'infrastruttura sempre adeguata. L'esempio di quello che è avvenuto con il trasporto eccezionale ci dice come, per effetto di una mancata controllo su un'infrastruttura, ha determinato un incidente così grave. Quindi le infrastrutture evidentemente sono uno degli elementi che contribuiscono a fare sicurezza, e come noi diciamo sempre, la sicurezza non può essere soltanto il principio al quale deve adeguarsi la categoria dell'autotrasporto. La sicurezza la si fa tutti insieme, ognuno per la propria parte, e soprattutto la si fa garantendo che ciascuno dei soggetti coinvolti si adoperi per aumentare il livello di sicurezza. A proposito di trasporti eccezionali, ora cosa succede? C'è una grandissima confusione. Credo che qui sia fondamentale che il governo e il Ministero dei Trasporti mettano mano ad una normativa che è oggettivamente poco chiara e lacunosa sotto tanti punti di vista. Certamente non si può pensare di risolvere il problema del trasporto eccezionale vietando alle imprese di trasporto di eseguire appunto i trasporti eccezionali. Bisogna rimettere mano alla normativa e farlo in una maniera repentina e soprattutto adeguata. Quindi trasporti eccezionali al palo ormai da mesi in seguito ai ritardi nelle concessioni delle autorizzazioni al transito da parte degli enti proprietari delle strade. Conftrasporto invoca una mappatura di ponti e cavalcavia. E la questione della paralisi dei trasporti eccezionali è tra i capitoli del Cahier de Doléances presentato dal mondo dell'autotrasporto, che sabato prossimo manifesterà in tutte le città per richiamare l'attenzione sulle difficoltà del comparto. L'iniziativa è stata promossa da UNATRAS, che accusa il governo di inerzia di fronte ad una serie di questioni rimaste irrisolte. In primo piano si legge in una nota: la mancata assunzione di iniziative a favore della regolarità del mercato nazionale ed internazionale, il tema delle sanzioni per chi non rispetta i tempi di pagamento e il funzionamento non adeguato degli uffici della motorizzazione, soprattutto sul fronte della revisione dei mezzi. Su questo ultimo punto ci sono due notizie. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l'assunzione di 30 ingegneri da destinare agli uffici periferici della motorizzazione civile più in sofferenza. Prenderanno servizio a Roma, in Sardegna, Emilia-Romagna e Piemonte. Contemporaneamente, altro personale, 85 addetti, è passato in forza alla motorizzazione proveniente da altre amministrazioni. L'altra notizia riguarda le nuove procedure per la revisione di camion e bus. Con una circolare emessa nei giorni scorsi, il Ministero ha imposto l'obbligo di una verifica preliminare del veicolo da parte di un'officina specializzata per accertamenti visivi che richiedono lo smontaggio di alcune parti. Un costo in più, denuncia Confartigianato Trasporti, che contesta anche l'aumento dei tempi minimi previsti per ogni singola revisione. La conseguenza, sostiene l'associazione, sarà un'ulteriore diminuzione del numero delle operazioni quotidiane. Prima si parlava dell'istanza di regolarità rivendicata da tempo dalle associazioni dell'autotrasporto. A proposito di cabotaggio abusivo e di dumping sociale, c'è un nuovo dato a suo modo da collegare a questi fenomeni. Nel corso del 2016, nel settore del trasporto e del magazzinaggio, l'Ispettorato del Lavoro ha scoperto 6.778 casi di lavoratori non in regola. Per la metà gli illeciti si riferivano al distacco o alla somministrazione di manodopera. Rispetto al 2015 l'aumento di queste irregolarità è più che raddoppiato. Voltiamo pagina e volgiamo di nuovo lo sguardo alla piattaforma logistica nazionale. A febbraio abbiamo parlato del porto di Genova, il primo ad essere collegato al Grande Fratello delle merci. Una volta a pieno regime, la piattaforma logistica nazionale consentirà il monitoraggio diretto delle merci in transito in tutti gli snodi logistici del nostro paese. Per spiegarci meglio come funzionerà questo sistema ITS, Intelligent Transport System, abbiamo intervistato Lorenzo Greco, a capo del promotore PNL e direttore commerciale di Enterprise Services Italia. Poniamo un esempio pratico. Al porto di Civitavecchia arriva un carico, un container, e a quel punto? Questo container avrà tutte le informazioni necessarie per tutti gli operatori, che non sono soltanto quelli logistici ma sono anche in termini di sicurezza e eventualmente di termini fiscali, quindi l'Agenzia delle Dogane, e attraverso un sistema di fondamentale cooperazione applicativa e di condivisione delle informazioni, le operazioni gestione di questo contenitore saranno tutte tracciate. Questo contenitore potrà prendere la via del suo destino finale, che sarà la distribuzione o l'industria, nel minor tempo possibile, perché tutte le informazioni saranno tracciate una volta sola. C'è una ricaduta benefica per tutta la collettività. Esattamente questo, perché l'obiettivo, la ricaduta complessiva è che a parità, date gli investimenti materiali, quindi la grandezza dei dei terminal, le autostrade e la ferrovia, questo permetterà di movimentare più velocemente le merci, quindi significa più merci, più scambi commerciali, più occupazione e quindi un incremento della ricchezza complessiva del nostro paese. Il porto di Genova ha aperto, diciamo così, il canale, a breve presumo a ruota seguiranno gli altri. Stiamo lavorando perché nei prossime settimane e nei prossimi mesi altri importanti porti italiani entreranno nel sistema nazionale della logistica, perché questo è un punto che mi piace sottolineare. Il nostro è un obiettivo nazionale che darà uniformità di comportamento, uniformità di sistemi, unicità dei dati, e questo appunto permetterà ai grandi operatori internazionali di avere un colloquio uniforme con qualsiasi punto d'ingresso nella catena. E questo sia dalla componente shipper che dalla componente industria, ti tema molto sentito, perché l'uniformità di dati, di informazioni e di sistemi è un qualcosa che premia in questo scenario globale. Secondo i dati diffusi da Confetra, in Italia la ripresa del trasporto di merci prosegue seppur ad un ritmo piuttosto lento. In termini di crescita il primato va al trasporto aereo, più 7,4%. L'incremento della modalità su strada ha fatto registrare un progresso del 4,4%, con una tendenza al rallentamento nel secondo semestre. Di un certo rilievo la ripresa del traffico di merci via ferrovia, più 4,1%. Cresce, anche se ad un ritmo inferiore, il trasporto di merci via mare. Container più 1,4%, rinfuse solide più 0,4%, RoRo più 3,1%. Continuiamo a dare qualche numero. A febbraio a Verona è andato in scena Transpotec, il salone dell'autotrasporto e della logistica organizzato da Fiera Milano. L'edizione ha rilanciato i segnali di ripresa del mercato. Il bilancio definitivo della manifestazione da Alessandro Garri, Exhibition Manager. Abbiamo fatto il 29% in più dei visitatori, il 20% più degli espositori, il 30% in più della superficie venduta e addirittura il 50% in più dei visitatori stranieri. Direi che è stata un'edizione in linea col mercato del 2016, che è stato molto molto buono. Sono ritornati in manifestazione i grandi brand, le grandi case straniere, praticamente tutti gli allestitori carrozzieri importanti, quindi direi che meglio di così non potevamo aspettarci. E oltretutto il segno del mercato è positivo e ci sono state un sacco di vendite in manifestazione in fiera, cosa che non si vedeva da un sacco di anni. Quindi credo che l'investimento di Fiera Milano in questi anni per cercare di ridare al settore, di aiutare il settore, fondamentalmente è stato ampiamente ripagato. Oggi per hashtag Autotrasporti è tutto, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.